20 novembre. Stanotte siamo andati a 12 gradi sotto zero e questa mattina, come prima cosa, sono uscita in giardino per vedere cos'era successo alle rosetea. Incredibile a dirsi. Erano ben sveglie e allegre, coperte di brina, è vero, ma lungi dall'essere annerite e avvizzite. Persino quelle nelle aiuole sopraelevate ai due lati dei gradini della veranda erano pimpanti e piene di boccioli, soprattutto la bouquet d'or. Lei credo che fiorirebbe persino con un minimo di incoraggiamento. Comincio a pensare che la delicatezza delle rosetea sia una leggenda e sono contentissima di aver avuto il coraggio di provare a coltivarle nel mio giardino nordico. Tuttavia non devo sfidare troppo la provvidenza, perciò, in vista dell'inverno, ho ordinato che le rose nelle cassette siano portate nella serra, dove, in un punto soleggiato accanto al vetro, spero che la bouquet d'or possa convincersi ad aprire alcuni di quei boccioli. La serra è un semplice ricovero e la manteniamo a una temperatura appena sopra lo zero, collocandovi soltanto le piante che non resisterebbero all'aperto durante i mesi più freddi. Non la utilizzo per coltivare nulla, perché non mi piacciono le piante che reggono all'aria aperta per 3 o 4 mesi l'anno e poi il tempo restante lo passano chiedendo cure assidue. Voglio un giardino pieno di creature forti e sane, capaci di sopportare un clima aspro e freddo senza arrendersi penosamente e morire. Una costituzione fragile, che si tratti di piante o di donne, non mi è mai sembrata un pregio. Esistono certamente molte varietà di fiori incantevoli che richiedono un clima caldo e cure pazienti, ma per ciascuna di esse ce ne sono almeno 50 ancora più incantevoli che prosperano riconoscenti nel clima che manda loro il buon Dio e che in cambio ricevono la benedizione di profumi e colori ben più intensi. Finora siamo stati molto presi dalla sistemazione delle aiuole permanenti e dalla messa a dimora delle nuove rose Thea. Adesso guardo alla prossima estate con rinnovata speranza, nonostante i miei numerosi fallimenti. Come vorrei che gli anni volassero e che il mio giardino toccasse presto la perfezione. Le Persian Yellow si sono trasferite nel loro nuovo settore, sostituite dalle rose Thea Safrano. In tutte le aiuole di rose c'è un tappeto di pansè di colore diverso, seminate a luglio e trapiantate a ottobre. Quelle viola sono le più graziose e si accompagnano bene con qualsiasi varietà di rosa, ma con le Laurette Musimy ne ho abbinate di bianche. Le gialle le ho accostate alle safrano, mentre la nuova varietà rossa l'ho messa nella grande aiuola centrale di rose rosse. Intorno al semicerchio, sul lato a sud della piccola siepe di ligustro, abbiamo seminato due file di speronelle annuali di sfumature diverse e delicate. E oltre alle speronelle sul prato c'è un semicerchio di rosa d'alberello e rampicanti su colonna. Le lunghe bordure davanti a casa sono seminate a speronella annuale perenne, aquilegie, papaveri giganti, garofani, gigli, violacciocche gialle, altea, phlox perenne, peonie, lavanda, astri, fiordalisi, lichnis calcedonica e bulbi, ovunque ci sia posto. Sono le bordure di cui il giardiniere precedente non si interessava quasi per nulla. Le cassette che in primavera saranno collocate sui gradini della veranda sono fitte di tulipani rosa, bianchi e gialli. I tulipani li amo più di ogni altro fiore primaverile. Per me sono l'incarnazione della prontezza sorridente, della grazia ordinata e precisa. Accanto ai giacinti sembrano una ragazza sana e appena uscita da un bagno rinfrescante, vicino a una matronale signora che con ogni movimento riempie l'aria di una greve fragranza di patchouli. Il profumo dei tulipani invece è leggero e delicato, l'essenza della raffinatezza. E poi, cosa c'è al mondo di più incantevole del brio con cui porgono il viso al sole? Li ho sentiti definire spavaldi e vanitosi, ma a me sembrano l'incarnazione della grazia e della modestia, unite tuttavia a una grande prontezza nel godere il più possibile della vita, senza timore di guardare in faccia il sole o qualsiasi altra cosa sopra di loro. Nel prato ce ne sono due aiuole tappezzate di non ti scordar di me. Sempre nel prato, a gruppi sparsi, ci sono narcisi bicolore gialli. Presto, lungo i sentieri del boschetto, lasciati più selvaggi, fioriranno in tutta la loro gloria la digitale e il tasso barbasso. Almeno lo spero. Poi c'è un angolo fresco, delimitato da abeti e ingentilito dai gigli, dalle digitali bianche e dalle aquilegie. In una radura distante ho creato un giardino primaverile intorno a una quercia che spicca solitaria sotto il sole. Vi ho seminato crochi, narcisi bicolore gialli, giacinti e tulipani. tra arbusti da fiore e alberi come il Pyrus malus, varietà Spectabilis, floribunda e coronaria, il Prunus iuliana, Maleb, Serotina, Triloba e Pissardi, delle Cydonia e Weigelia di vari colori e diverse specie di Crataegus e altre meraviglie di maggio. Se il tempo si comporta bene, e ci sarà pioggia non troppo forte al momento giusto, credo che questo angolino diventerà qualcosa di bello, ma mi rendo conto che è un sé davvero grosso come una casa. La siccità è il nostro grande nemico e le due ultime estati abbiamo avuto 5 settimane di calura e cielo terso che hanno prosciugato i canali di irrigazione e trasformato il terreno in una sorta di pasta frolla bollente. In periodi simili annaffiare è ovviamente un lavoro che va oltre le possibilità di due uomini. Tuttavia, per me il giardino è un luogo di pace e felicità, dove non vorrei mai incontrare miriadi di occhi curiosi dietro ogni angolo, perciò non intendo assumere più di due giardinieri. In realtà, i giardinieri sono uno e mezzo, perché l'assistente tende a comportarsi come le cicogne e ogni autunno torna in Russia a svernare per ripresentarsi a primavera insieme ai primi 20 tiepidi. Invece vorrei che rimanesse durante la stagione fredda, quando c'è comunque molto lavoro da fare. Qualche giorno fa ho provato a sondare le sue intenzioni. È un ometto miserevole, zoppo e afflitto da un'orribile malattia agli occhi, ma è un gran lavoratore e sgobba ininterrottamente dall'alba al tramonto. Per favore, mio buon aiutante cicogna, gli ho detto in tedesco, perché non rimani qui con noi d'inverno invece di tornartene a casa a sprecare in bagordi tutti i soldi che hai guadagnato? Rimarrei volentieri, ma in Russia ho una moglie, ha risposto. Una moglie? Ho esclamato, stupidamente a sorpresa che quel povero essere deforme avesse trovato una compagna, come se di coniugi il mondo non fosse fin troppo pieno. Non sapevo che fossi sposato. Sì, e ho due bambini piccoli. Non so cosa farebbero se non tornassi. Con tutto il viaggio è anche costoso. Ogni volta 7 marchi. 7 marchi. Eh sì, sono tanti soldi. Mi sono chiesta se riuscirei ad arrivare in Russia con solo 7 marchi, sempre che mi venisse la strana voglia di andarci. Tutti i braccianti che lavorano nei dintorni tra marzo e dicembre sono russi o polacchi o una mescolanza dei due. All'inizio dell'anno mandiamo un incaricato che parla la loro lingua per radunarne il maggior numero possibile. Arrivano con i loro fagotti, uomini, donne e bambini. E non appena gli viene rimborsata la spesa del viaggio, se si presenta la possibilità, se la battono anche in gruppi di 50 per volta per andare a lavorare dai contadini, sia da soli che in coppia. I contadini li pagano 1 o 2 penny al giorno in più di noi e li fanno mangiare a tavola con loro. Da noi prendono 1 marco e mezzo o 2 al giorno e patata volontà. Le donne prendono di meno non perché lavorino meno, ma perché sono donne e non devono essere incoraggiate. Il sorvegliante vive con loro e ha sempre una pistola carica in tasca e un cane feroce alle calcagna. Per le prime 2 settimane dopo l'arrivo, i guardiaboschi e altri addetti in permanenza alla sorveglianza ogni notte montano la guardia alle case in cui sono alloggiati. Immagino che per i guardiani sia il lavoro che concilia il sonno. Infatti, ogni primavera succede sempre la stessa cosa. Se ne vanno in 50, nonostante gli accorgimenti che adottiamo, lasciandoci a bocca aperta e alleggeriti di una bella sommetta. Quest'anno gli è capitato di perdere i fagotti per strada e siccome si mettono in viaggio con i loro vestiti migliori, non hanno voluto saperne di lavorare finché non sono arrivati i bagagli. Abbiamo perso una settimana, i sorveglianti e i datori di lavoro erano disperati. Figurarsi poi se vogliono saperne di lavorare durante le ricorrenze religiose, quando si riversano in massa nella chiesa ortodossa. In primavera, stagione in cui ogni ora è di vitale importanza, il lavoro è interrotto costantemente da queste ricorrenze e i braccianti se ne stanno tutto il giorno a dormire al sole, nella gradevole consapevolezza di compiacere se stessi e la Chiesa al tempo stesso. Non c'è che dire, si tratta di una beatitudine tanto rara quanto auspicabile. Naturalmente la ragione priva dell'aiuto della fede è esasperata da un tale spreco di tempo prezioso e confesso che in quei primi giorni miti dopo il lungo inverno gelido, quando sarebbe stato possibile tornare a lavorare la terra, invece nessuno lo faceva, ho condiviso la tetraggine dell'uomo della collera, che si è trovato a dover affrontare i braccianti che si sono astenuti dal lavoro per ben 3 giorni in una settimana e ho ascoltato in silenzio le sue opinioni su tutti i santi della Russia. Credo che il primo moto di pietà che ho provato per questa gente quando sono venuta a vivere qui sia dovuto al surplus di cultura che mi affligge. Si ammucchiano l'uno sull'altro come animali e lavorano come bestie. Però, nonostante il sorvegliante armato, la sporcizia vestita a brandelli, le patate di cui si nutrono e l'aceto annacquato che bevono, comincio a credere che rifiuterebbero il sapone e non indosserebbero vestiti in buono stato neppure se ne avessero. Tuttavia, al tramonto li sento che tornano a casa cantando. Sono come bambini o animali, con la loro incapacità congenita di afferrare l'idea di un futuro. Ma non mi stupisco più di tanto, perché dopo una giornata di lavoro sotto il sole che ti manda il buon Dio, la sera ti senti gradevolmente stanco e sei pronto per il riposo, piuttosto che per una riflessione critica sul destino che ti ha toccato. Comunque non sono ancora convinta che le donne siano felici di questa vita. Faticano quanto gli uomini e guadagnano di meno. Devono fare figli senza decidere il momento e l'opportunità di una gravidanza. E dopo aver partorito, devono tornare immediatamente al lavoro. Nessuno le aiuta, nessuno le nota o si cura di loro, men che meno il marito. È normale vedere lavorare nei campi il mattino e riprendere a faticare nel pomeriggio dopo aver sfornato un bambino, che viene affidato a una donna anziana il cui compito è badare ai figli della comunità. Una volta ho espresso tutto il mio orrore per quelle povere creature che si rimettono al lavoro dopo il parto come se non fosse accaduto nulla, ma l'uomo della collera mi ha informato che le braccianti non soffrono, perché come le madri e le nonne prima di loro, non portano il corsetto. In quell'occasione eravamo in giro a cavallo e avevamo appena superato un gruppo di lavoranti. Mio marito si era fermato a parlare con il sorvegliante. È sopraggiunta una donna che ha preso una vanga e si è messa a scavare. Ci ha salutato con una riverenza e un sorriso gioviale, mentre il sorvegliante commentava che era appena tornata da casa dove aveva partorito. «Povera donna!» esclamai quando riprendemmo il cammino. Chissà perché ero molto arrabbiata con l'uomo della collera. E a quel disgraziato del marito non gliene importa un fico secco. Magari stasera, se la cena non gli aggrada, la picchierà pure. Che assurdità parlare di uguaglianza tra i sessi quando sono le donne a fare figli. Hai proprio colto il punto, mia cara, replicò l'uomo della collera con un sorriso condiscendente. La natura, imponendo questo gradevole compito alla donna, la indebolisce e la rende incapace di tenere testa seriamente all'uomo. Come può una persona che perde regolarmente un anno della parte migliore della propria vita competere con un giovane maschio che invece non perde mai tempo? L'uomo possiede la forza bruta. E su qualsiasi argomento avrà l'ultima parola grazie al suo pugno. Non dissi nulla. Era un tetro grigio pomeriggio di inizio novembre e le foglie cadevano lente e silenziose ai piedi dei cavalli sulla strada per lo Hirschwald. È consuetudine diffusa fra i russi, proseguì l'uomo della collera, e credo ovunque tra i poveri, mettere a tacere le obiezioni e le aspirazioni di una donna con un bel ceffone che la stenda. Si tratta di una pratica certamente raccomandabile per efficacia e semplicità. Ho sentito dire che tale pratica, apparentemente brutale, non stordisce gli effetti sgradevoli che le persone educate alla tenerezza potrebbero supporre, anzi, chi la subisce ne è consolato e soddisfatto con una rapidità e una compiutezza impossibili da ottenere con metodi diversi e più garbati. Tu credi, continuò spezzando con un colpo di frusta un rametto mentre passavamo, che il marito intellettuale, lottando intellettualmente con le aspirazioni della sua moglie intellettuale, ottenga mai il risultato cui aspira? La sua lotta potrebbe continuare e continua fino allo sfinimento, ma non riesce mai a convincerla dell'idiozia delle sue idee. Intanto, il suo confratello dalla giacca Brandelli ha già sistemato la questione in meno tempo di quello che ci vuole a spiegartelo. Non c'è dubbio che queste poveracce realizzino la propria vocazione in modo più completo delle donne che appartengono al nostro ceto sociale e dal momento che la felicità più vera consiste nel trovare rapidamente la propria vocazione senza più abbandonarla per il resto della vita, ritengo che le donne povere siano da invidiare per la conoscenza precoce che acquisiscono circa l'impossibilità di contrastare la forza bruta del maschio. In tal modo comprendono quanto sia impotente la donna in ogni sua aspirazione e quanto rassegnarsi sia una benedizione. Continua, ti prego, disse educatamente. Tali donne accettano le botte a loro riservate con commiserazione commendevole semplicità e lungi dal considerarsi offese. Ammirano la forza e l'energia dell'uomo capace di somministrare loro rimproveri tanto eloquenti. In Russia, non soltanto all'uomo è permesso picchiare la sua donna, ma qualsiasi ragazzo è istruito dal catechismo della cresima sulla necessità di picchiare la donna almeno una volta a settimana per la sua salute e felicità, sia essa colpevole o innocente. Mi sembrò di notare nell'uomo della collera una certa inclinazione a provare un piacere maligno nel parlare di quelle punizioni. Di grazia, mio caro marito, dissi indicando la luna con il frustino. Guarda questa luna appena nata che fa capolino tutta innocente, dal lembo di nebbia oltre la betulla bianca. E non stare tanto a parlare di donne, di cose che non capisci. A che ti serve preoccuparti di pugni, fruste, muscoli e tutto il tremendo armamentario che avete inventato per rispondere alle mogli ribelli? Sai bene che sei un marito civile. Un marito civile è una creatura che ha smesso di essere un uomo. E una moglie civile? Replicò, portando il cavallo di fianco al mio e allungando il braccio per cingermi la vita. Una moglie civile ha smesso di essere una donna? Certo, è una dea. E non potrà mai essere sufficientemente adorata e riverita. Mi sembra che la conversazione stia diventando personale. Partì al galoppo sul terreno elastico, coperto di erba bassa. In serate come quella, lo Hirschwald è un luogo incantato. La nebbia si stende rasoterra, mentre in alto i rami nudi e fragili delle betulle bianche si stagliano netti contro un cielo delicato. E la luna al primo quarto le volge un tenero sguardo al mondo zuppo dell'umidità di novembre, dove comincia il bosco, il profumo della terra bagnata e delle foglie marce sollevate dagli zoccoli dei cavalli mi riempie l'anima di delizia. Amo particolarmente quell'odore perché mi offre tutta la benevolenza della natura, sempre all'opera con la morte e la putrefazione, di per sé dolorose, per trasformarle in nuova vita e splendore, creando con il suo lavoro meravigliosi profumi. 7 dicembre. Sono stata in Inghilterra, ci sono andata per rimanerci almeno un mese. Ho trovato la nebbia per una settimana e poi una burrasca mi ha riportato a casa. Per 2 volte sono fuggita in campagna per evitare la nebbia, ma ho trovato la pioggia. Volevo fare visita ad amici provvisti di giardino e a parte i bellissimi prati che da noi non si trovano e le infinite possibilità, non c'era nulla che potesse interessare lo straniero amante dei giardini, per la buona ragione che non si può mostrare interesse per tali spazi se si è costretti a girare con l'ombrello. Perciò sono tornata nella nebbia e dopo qualche giorno passato a brancolare nel grigiore ho cominciato a desiderare la Germania senza alcun ritegno. Appena sono partita si è scatenata una burrasca tremenda e il viaggio per mare sulla terraferma è stato un susseguirsi di orrori. In Germania i treni sono talmente riscaldati che è praticamente impossibile stare seduti. Potenti getti d'aria calda salgono da sotto i sedili imbottiti, bollenti a loro volta, e il povero viaggiatore si sente mancare il respiro. Ma quando sono arrivata a casa e sono scesa dal treno, ho trovato un'aria di neve pura e brillante. Il mondo sembrava immobile, in ascolto, il cielo era terso. La neve friabile scintillava sotto i miei passi e sui rami, e 3 bambine raggianti mi aspettavano in fila. Questo mi ha consolato di ogni pena, riportandomi alla mente le traversie solo affinché mi chiedessi perché mai avevo intrapreso il viaggio. Le bambine avevano ciascuna un gattino e un elegante mazzetto di rametti di pino e fili d'erba da offrirmi, che tuttavia hanno molto ostacolato, gli uni divincolandosi, gli altri passando da una mano all'altra, i baci e gli abbracci di benvenuto. Alla fine siamo riusciti a far entrare gattini, mazzetti e bambine nella slitta e siamo partite con un gran scampanellio tra gridolini di gioia. Quando torni ci si diverte tantissimo, ha detto la bimba di maggio stringendosi a me. Come fa l'infusa la neve? Ha esclamato la bimba di aprile, sentendo come scricchiolava sotto gli zoccoli dei cavalli. La bimba di giugno cantava a squarciagola: Re dell'amore è il mio pastore, facendo dondolare il gattino che teneva per la coda per sottolineare il ritmo. La casa, semisepolta nella neve, era l'espressione della pace più pura. Ho attraversato di corsa tutte le stanze, ansiosa di riprendere possesso di quei luoghi, e mi sentivo come se fossi stata lontana per un'eternità. Quando sono arrivata alla biblioteca mi sono fermata. Ah, la mia stanza preferita. il luogo dove ho trascorso tanti momenti felici rovistando tra i libri, facendo progetti per il giardino, costruendo castelli in aria, scrivendo, sognando, in ozio. Un bel fuoco di torba avvampava fino a metà camino e la vecchia governante aveva disposto vasi di fiori ovunque. Sulla scrivania c'era un gran mazzo di viole che profumavano la stanza. Che bello essere di nuova casa! Ho sospirato soddisfatta. Le bambine mi si aggrappavano alle ginocchia e mi guardavano con occhi colmi d'amore. Fuori neve e sole abbagliante. Dentro una stanza luminosa e tanti visi felici. Ho ripensato alle nebbie giallastre dell'Inghilterra e mi sono venuti i brividi. In biblioteca l'uomo della collera non ci viene mai. È il terreno neutrale dove ci incontriamo per un'ora la sera prima che lui scompaia nelle sue stanze. Un'infilata di studioli e salotti invasi dal fumo all'estremità sud-est della casa. Temo che la biblioteca abbia un aspetto fin troppo allegro per essere considerata ideale e dei colori, bianco e giallo, talmente festosi da sfiorare la frivolezza. Le librerie sono dipinte di bianco, ci sono un ampio camino e quattro finestre a facciata sud che si aprono sull'angolo di giardino che amo di più, quello che circonda la meridiana. Insomma, con tutti questi colori, il fuoco acceso e il sole che la inonda ha un aspetto tutt'altro che austero, nonostante gli scaffali siano pieni di venerabili tomi. Anzi, non mi sorprenderebbe affatto se i libri scendessero dalle scansie e, afferrandosi per le pagine, cominciassero a danzare. Con questa stanza a disposizione posso predispormi serenamente ad accogliere qualsiasi nevicata che la provvidenza riterrà opportuno inviarmi. Uscire in giardino quando è ricoperto dalla neve è come immergersi nella purezza assoluta. Già aprendo la porta respiro un'aria talmente pura che mi toglie il fiato e mi fa sentire una macchia scura e peccaminosa in mezzo a tanto candore. Ieri sono rimasta tutto il pomeriggio seduta accanto alla meridiana. Il termometro è sceso di così tanti gradi sotto lo zero che ci metterà settimane a risalire, ma non c'era vento e splendeva il sole. E poi ero imbacuccata in strati di pellicce. Mi sono fatta portare il tè, la servitù era sbalordita e mi sono trattenuta ben oltre il tramonto, seduta a godermi l'aria gelida. Il tè l'ho dovuto bere in fretta perché mostrava una ben precisa inclinazione a congelarsi. Dopo il tramonto sono arrivati i corvi. Tornavano ai rispettivi nidi sugli alberi e prima di sistemarsi hanno fatto un gran trambusto. Trali che sbattevano, esitazioni e scaramucce varie, me ne sono passati a centinaia sopra la testa, finché non si sono messi comodi per la notte e un profondo silenzio è sceso sulla casa, che da quel momento è sembrata l'illustrazione di un biglietto d'auguri natalizi. Con il tetto bianco contro il cielo verde e tenue occidente, le finestre illuminate nel crepuscolo. Accanto alla meridiana, tra uno sguardo al paesaggio e un pensiero felice, leggevo una pagina della biografia di Lutero prestatami dal pastore. Un giorno si è presentato con il libro e mi ha supplicato di leggerlo, poiché si era reso conto che il mio interesse per quel personaggio non era così vivo come avrebbe dovuto. Perciò me lo sono portato in giardino, consapevole che persino il libro più noioso acquista una certa grazia che lo redime se lo si legge all'esterno, proprio come il pane e burro che se mangiato in soggiorno è privo di fascino, ma saporato sotto un albero diventa ambrosia. Così ho letto Lutero per tutto il pomeriggio, facendo una pausa ogni tanto per ammirare il giardino e il cielo, con il cuore colmo di gratitudine. Le sue lotte con il diavolo mi hanno meravigliato e mi sono chiesta se una giornata come questa, piena di grazia e di redenzione, non l'avrebbe convinto ad ammorbidirsi persino nei confronti dei demoni. Mi è sembrato che non si sia mai concesso di essere semplicemente felice e benché fosse un uomo eccezionale, sono contenta di non essere stata sua moglie. Il pastore è una persona interessante, costantemente impegnato a migliorarsi. Lui e sua moglie studiano non appena hanno un momento libero. E si narra che lei mescoli il budino con una mano mentre con l'altra regge una grammatica latina. Ovviamente, la sua attenzione va principalmente alla lettura della grammatica. La maggior parte delle Hausfrau tedesche attribuisce alla cucina e alla preparazione dei budini un'importanza capitale e si vanta di tenere le parti in vista della casa in uno stato di perenne lindore. Ciò è degno di infinita lode. Eppure vorrei sapere, mi scuso dell'ardire, se per caso non esistano cose più importanti nella vita. Forse che vivere semplicemente e pensare in modo complesso non è la combinazione preferibile? Curare spasmodicamente la preparazione dei pasti, la spolveratura, dei mobili, richiede una quantità esagerata di tempo prezioso e confesso con una certa vergogna che le mie simpatie vanno ai budini e alla grammatica. Non è giusto essere schiavi dei domestici, perciò dichiaro solennemente che se mai i miei mobili mi irritassero venendo a chiedermi di essere spolverati, proprio quando voglio fare tutt'altro e non ci fosse nessuno per spolverare al mio posto, li prenderei tutti e ci farei un gran falò. E poi mi ci metterei davanti a scaldarmi i piedi, non senza aver venduto i piumini al primo venditore ambulante tanto debole da comprarseli. Le mogli dei pastori devono fare i lavori di casa e cucinare. Se hanno figli, e ne hanno sempre, oltre che cuoche e cameriere, devono pure essere capo e aiuto bambinaia. Poi, oltre a tali quisquiglie, devono anche occuparsi dell'orto e del frutteto, nonché del pollaio. Stando così le cose, non è commovente che una giovane donna lotti coraggiosamente per tenere testa al marito e imparare le lingue? Se fossi io il marito, i budini più buoni mi sembrerebbero quelli con la salsa di latino. Sono entrambi assai devoti e si sforzano disperatamente di mettere in pratica ciò che predicano, ovvero cercano di fare una delle cose più difficili al mondo, come ben sappiamo. Lui dedica tutto se stesso al lavoro nella parrocchia e non si perde mai d'animo, nonostante i suoi sforzi siano stati più volte ripagati da disgustose calunnie affisse agli angoli delle strade, infilate sotto le porte e persino attaccate al muro del suo stesso giardino. I contadini del luogo sono esseri bestiali e infimi, oltre ogni immaginazione, e un pastore sensibile e colto in mezzo a loro si trova come una perla tra i porci. Per anni è andato avanti con risolutezza, colmo di fede viva, di speranza e carità. E spesso mi chiedo se i miei parrocchiani non siano meglio di quando c'era il suo predecessore, un tipo che fumava e beveva birra dal lunedì mattina al sabato sera. Non alzava mai un dito e faceva aspettare i pochi fedeli in chiesa la domenica pomeriggio, finché non aveva finito la pennichella. Quello che gli tocca sopportare farebbe desistere chiunque. Un altro pastore abbandonerebbe la parrocchia a se stessa a guadagnarsi il paradiso e l'inferno da sola. Invece lui non sembra mai demoralizzato, anzi, continua a sacrificare la parte migliore della sua vita a questa gente, benché abbia i gusti letterari e il temperamento di uno studioso. Le sue convinzioni lo tirano fuori di casa ogni ora per portare i sacramenti ai malati ed esortare i malvagi. Non gli concedono riposo, non gli permettono di sentire che ha fatto abbastanza. E quando rientra sfinito, dopo un giorno di intensi scontri con le anime dei parrocchiani, sulla soglia di casa trova luridi insulti affissi alla porta. Di queste cose lui non parla mai, ma si vedono, non è possibile nasconderle. Prima di sera, da queste parti, si viene sempre a sapere tutto quello che è accaduto, ma la gente ha più a cuore il menù serale che qualsiasi catastrofico terremoto politico. Il pastore e sua moglie abitano in un cottage spazioso e carino, con un bel appezzamento di terreno attiguo al cimitero. Il suo predecessore, sulle tombe, ci stendeva il bucato ad asciugare, perché era privo del benché minimo senso della decenza. Alla fine dovettero mandarlo via. Il suo ultimo sermone fu un concentrato di vituperi e insulti, tra cui quelli che scagliò contro l'uomo della collera, il quale ascoltò tutto dalla sua panca divertendosi un mondo. L'uomo della collera adora le novità e un sermone come quello non si era mai sentito. Ancora oggi in paese se ne parla con timore reverenziale e gioia maligna.